avventurieri. Il mendicante stava solo recitando. Ora si è rivelato per ciò che è. Un impostore pronto ad attaccare. Dovete fuggire immediatamente. Davanti a voi si apre un sentiero lungo 24 passi, disseminato di ostacoli. Durante la corsa dovrete saltare una radice ogni 3 passi, passare sotto un tronco ogni 4 passi, e se entrambe le condizioni si verificano nello stesso punto, attenzione, non farete nessuna delle due, ma dovrete invece compiere una deviazione laterale per aggirare entrambi gli ostacoli. Ora riflettete bene, quante deviazioni dovrete fare?